è l'Europa dove i cittadini, le persone, possono avere un ruolo direttamente da protagonisti, cioè non rassegniamoci all'idea che il ruolo dei cittadini in Europa sia semplicemente una volta ogni 5 anni scegliere la squadra del proprio colore votando alle elezioni europee e poi per 5 anni governi, stati, parlamentari europei gestiscono per 5 anni senza che i cittadini possano più dire niente le cose che ormai sono vitali per il nostro futuro, cambiamenti climatici, pandemie, le guerre. È uno strumento di cittadinanza questo. Esatto, esiste un fragilissimo strumento previsto dalle istituzioni europee che si chiama iniziative dei cittadini europei. Significa che con 1 milione di persone da almeno 7 paesi dell'Unione Europea si può portare sul tavolo della Commissione Europea una proposta. È come fosse una legge di iniziativa popolare europea. Noi vogliamo attivare questo strumento su alcune delle questioni più importanti del nostro tempo, per esempio cambiamenti climatici, togliere le tasse dal lavoro e metterle sull'inquinamento e il consumo delle risorse ambientali. Poi tanti altri temi, abbiamo parlato di reddito universale, servizi di base, abbiamo parlato di diritti civili, aborto, cannabis, eutanasia, di immigrazione, di scienze e di tecnologie, di allevamenti intensivi. L'idea è da qui a Danzica, ci sarà una riunione convocata a metà a marzo dal 15 al 18, European Alternatives e Humans, queste due organizzazioni, una fusione tra EU, Unione Europea, e umano, esseri umani. A Danzica chiuderemo, quindi in questi 40 giorni raccoglieremo tutte le proposte. A Danzica decideremo su cosa partire con la raccolta firme, preparando un grande comitato paneuropeo su iniziative concrete e poi vedremo se in alcuni di questi paesi, magari anche in Italia, questo progetto avrà la forza tanto di raccogliere 1 milione di firme e eventualmente anche di trasformarsi in lista elettorale. E noi vogliamo mettere al centro delle prossime elezioni europee delle proposte concrete e offrirle a tutti i partiti, in realtà, essendo anche pronti, soprattutto se queste proposte non verranno ascoltate, a inserirle anche nel momento delle elezioni europee. Ma questo è ancora un dibattito in corso, anche perché in alcuni paesi potrà essere possibile, in altri no, in Italia non abbiamo ancora deciso, ma c'è questa possibilità. Prendersi cura dell'ambiente, prendersi cura degli ultimi, prendersi cura anche di noi stessi e delle cose che abbiamo come urgenze dentro di noi, dentro il nostro cuore, ma che ci vengono dalle urgenze del lavoro, della vita, della sessualità, del corpo. Prendersi cura e ascoltare gli altri e se stessi è la base per realizzare qualcosa di decente politicamente, anche perché altrimenti siamo ossessionati dall'idea che la politica sia la competizione del marketing elettorale per incoronare il capo di oggi che poi tra 6 mesi, un anno cadrà in disgrazia. Non è questa la politica.